calumela zompe vola addosta nella mia. Non fermarti per la via, vole zompa che la coliscella la salute. Falla festa, attorno, attorno, e le dica notte e giorno, io sto sempre a sospirare. Palumella, vola, vola, alla rosa de stu coro, non ci sta bello giorno che t'avesse da piacere all'attore che tu sente a chi lo c'è, a chi lo risa crederai che un paraviso tu si chiude ai palumè. Alo labbra, corallina, palumè, va zompa e vola, coppa chilla, te consola, e mai più non te parti, ma si vira, casa dorma, et bene, alo dantino. Tu la zicca, nu vasilla, è per me nato porzì, è per me. E le dica, notte e giorno, io sto sempre a sospirare.